Zibaldone, un programma in italiano non solo per italiani. Ogni venerdì dalle 18 alle 20 su Radio Contrabanda 91.4 FM a Barcellona. Zibaldone. Zibaldone. E buon pomeriggio a tutti, bentornati qui sulle frequenze di Radio Contrabanda per una nuova puntata di Zibaldone, la penultima prima della pausa estiva, quindi insomma la prossima già sarà, ve lo anticipo, come ormai tradizione, le canzoni dell'estate, quindi questa è l'ultima puntata di interviste, di dibattiti, ecco, e oggi ne abbiamo molti, insomma, di cose da raccontare, molte cose da raccontare, e tra poco insomma vi racconteremo un po' che cosa abbiamo in serbo per voi, e nel frattempo se lo ricordo. Ricordarvi insomma che Zibaldone va in onda tutti i venerdì dalle 18 alle 20 sulle frequenze di questa storica radio libera barcellonese Contrabanda FM e che poi ci trovate anche non solo in streaming ma anche in podcast dal nostro blog zibaldone.contrabanda.org. Non perdiamo altro tempo e cominciamo subito con un po' di musica per scaldare i motori. Il nuovo singolo di Gabriele Laponte, che anni fa era stato anche nostro ospite in radio, si chiama Neri a metà, è una bellissima canzone, godetevela. Ci sono cose che si possono capire, ce ne sono altre che invece forse no, come cercare l'alba dentro l'imbrunire o fare un salto nel buio. Cinema lo deve poter fermare, fermare, seppur la tempesta è sempre pronta là, in alto. Molto bello questo brano folk rock di Gabriele Laponte, Neri a metà, che anticipa il suo nuovo disco. Sicuramente ne parleremo dopo l'estate quando uscirà e magari lo intervisteremo anche, che era stato ospite a Zibaldone ormai parecchio tempo fa quando viveva a Barcellona. Banzo, bentornato, più ergonomico che mai, buon pomeriggio di nuovo qui a Zibaldone per la penultima puntata della stagione. Buon pomeriggio a te Steven, buon pomeriggio a tutti, buon luglio perché ormai l'estate imperversa e nulla, abbiamo cominciato con un brano di cantautorato che diciamo rientra nella vocazione del nostro programma e un commento rapidissimo su due citazioni che questa canzone contiene che però fanno riferimento ad artisti dal sound abbastanza diverso. Beh, ovviamente abbiamo il titolo Neri a metà che secondo me anche un richiamo a Nero a metà, album di Pino Daniele, anche se si parla di occhi, poi abbiamo sentito nel testo. E l'altro è una citazione diretta di Battiato del Cercare l'alba dentro l'imbrunire, della prospettiva Nevsky, ed è curioso perché comunque abbiamo sentito un suono abbastanza folky che musicalmente non è mai stato coperto troppo né da Pino Daniele né da Battiato, ma comunque sono due grandi punti di riferimento della canzone italiana, della musica italiana d'autore. Assolutamente, la musica ci accompagnerà quest'oggi, però in realtà parleremo di tante cose. Cominciamo però con un po' di musica perché e con altre news che ci arrivano dall'Italia, perché proprio un paio di giorni fa sono stati resi noti i vincitori delle Targhe Tenco di quest'anno, ne avevamo accennato anche le scorse settimane, avevamo ascoltato alcuni degli artisti che erano arrivati nelle cinquine finaliste. Alla fine i vincitori sono Vinicio Capossela con 13 canzoni urgenti per il miglior album in assoluto, Niccolò Fabi con Andare Oltre per la Targa Tenco alla canzone singola, Daniela Pes con Spira per la miglior opera prima, cantautrice sarda. Con la cantautrice sarda di cui abbiamo parlato in più occasioni nei mesi scorsi, per il disco di migliori interpreti di canzoni è un ex aequo tra Francesco Guccini, Canzoni da Intorto, e Alice, Eri con me, e poi ci sono altre due targhe, una è quella dell'album in dialetto che se l'è aggiudicata se li sono aggiudicati gli Alma Megretta con Senghe, ce l'andiamo appunto subito ad ascoltare, la canzone che dà il titolo a questo disco, Senghe, Alma Megretta, qui su Zibaldone per ascoltare un po' di musica italiana e conoscere meglio i vincitori delle Targhe Tenco 2023. Stessa forma di mano, stessa forma. Jerusalem. Così si conclude questo bel brano degli Alma Megretta, un gradito ritorno davvero, Banzo, la voce si sentiva che è quella di Raiss, Sì, una voce riconoscibile come poche e comunque anche uno stile che si mantiene particolare, adesso non vorrei dire una cosa impropria, però come sottolineavo anche la puntata precedente riguardo un altro artista, c'è sempre questa tendenza associare le lingue locali o i dialetti a sonorità folcloristiche, quando in realtà ci sono poi artisti che le portano, che usano lingue locali anche in un contesto di assoluta modernità sonora, perché ad esempio pensiamo al napoletano liberato, un caso degli ultimi anni, con la differenza che gli Alma Megretta lo fanno da 30 anni, ecco, perché hanno una carriera senz'altro molto molto lunga e uno stile molto personale. Eh sì, è un gradito ritorno, sentitevi tutto l'album, Senghe, la canzone dava proprio il titolo all'album, quella che ci siamo appena sentiti. Che significa, appunto, visto che stiamo parlando di lingue locali, significa fessure in italiano. Bravo, ben detto, sempre preciso e puntuale, Banzo. E oggi puntata ricca davvero, perché non solo torna Ricky Russo, che mancava da un bel po' su Zibaldone, ma nella prima parte avremo una chiacchierata, un dibattito sulla situazione politica in Spagna in vista delle elezioni del 23 giugno. Ci accompagneranno Luca Tancredi Barone e Paola Locascio, mentre nella seconda parte parleremo di dance e di icone pop, ossia di Donna Summer, insieme ad Andrea Angeli Bufalini e Giovanni Savastano, che sono autori di un bellissimo libro uscito recentemente in Italia, una biografia con tantissime fotografie di Donna Summer, La voce arcobaleno, questo è il titolo del libro. Ma non perdiamo altro tempo, Banzo, e prima di cominciare a parlare di Spagna ci andiamo a sentire un altro brano che forse introduce tematiche più politiche, quella del Re Tarantola. Beh sì, allora, tematiche politiche fino a un certo punto, forse è più il riferimento del titolo che adesso Steven vi dirà, o se no ve lo dico anch'io, aiutiamoli a casa loro comprando le loro lauree, che è un brano del Re Tarantola che potremmo definire una specie di cantautore punk rock dalla Val Camonica, che ha una passione per i titoli molto estrosi. Il disco si intitola Sono un vecchio, è in free download su Bandcamp, quindi a disposizione. E vabbè, il tempo è tiranno, ma vi volevo citare fra i brani dell'album Vacanze rumene e Il pubblico dei concerti rock è diminuito come i capelli dei musicisti. Il resto scopriteli voi, c'è dell'ironia abbastanda corrosiva. E, ce la devo ascoltare. Del brano che sentiremo, ma chi ha detto trota? Io non l'ho detto, Le carriere che ho pensato di intraprendere da stronzo, ci sono il venditore di kimoni, il corista delle porno riviste, la controfigura di Don Matteo che va in bicicletta, il corista di bombarde di tutti i suoi figli, The Wailers e di Peter Tosh. Vorrei avere due cellulari per farmi uno squillo quando ne perdo uno. Vorrei avere due cellulari per farmi uno squillo quando ne perdo uno. Lo scopo della mia vita è far sentire più ricchi ricchi, ma se il locale ha una capienza di 20 persone spesso faccio sold out. Potrei vendere zanzariere in Africa ricavato dall'unione dei milioni. lamento sempre della vita. Ma se arriva un cambiamento dice che gli ha rovinato la vita. Potrei fare il vigile alle Canarie. Sarebbe bello come il ponte di Cristo, anche se meglio il cavallo di Bisogne. Aiutiamoli a casa loro, comprando le loro lauree. Aiutiamoli a casa loro, comprando le loro lauree. Aiutiamoli a casa loro, comprando le loro lauree. Vorrei avere due cellulari, ma farmi uno squillo quando ne prendo uno. Eccoci qui in diretta per parlare di quello che sta succedendo in Spagna in vista del voto del prossimo 23 luglio. Ci accompagnano Paola Locascio, storica dell'Università di Barcellona. Bentornata a Zibaldone, Paola. Buonasera Steven e grazie per l'invito come sempre. E anche un bentornato a Luca Tancredi Barone, giornalista, collaboratore del Manifesto. Luca, bentornato. Ciao Steven, ciao a tutti, buonasera. Un piacere avervi con noi per parlare di un'elezione estiva, insomma abbastanza non così abituale, ecco, come data, il 23 luglio, inaspettata almeno fino a insomma 5-6 settimane fa, perché sono elezioni anticipate, e in un clima politico molto complesso dopo il voto delle amministrative dello scorso 28 maggio. Comincerei da qui con una battuta rapida, così telegrafica, per cominciare un po' questa chiacchierata. Paola, con te. Insomma, qual è il minuto e il risultato? Dove ci troviamo adesso in Spagna? Allora, adesso siamo in un momento in cui diciamo c'è il rischio, o in ogni caso diciamo la prospettiva tangibile di un governo della destra e dell'estrema destra dopo un voto amministrativo, diciamo, in cui si è visto chiaramente che la divisione della sinistra ha fatto pagare un prezzo, però siamo anche in un momento, diciamo, economicamente abbastanza dolce per la Spagna, e quindi bisognerà pure vedere se come dire, il modo come dire, di presentare questa campagna elettorale da parte delle forze di governo sarà in grado di mantenere in qualche modo le politiche fatte fino adesso. Luca, dal tuo punto di vista invece, minuto e risultato, cosa aggiungeresti o cosa modificheresti a quello che ha detto Paola ora? Io quello che osserverei è che diciamo il clima politico certamente è cambiato rispetto alle ultime elezioni politiche, e non, diciamo, nonostante il fatto che la destra conti di poter vincere queste elezioni, e dando per scontato che comunque andrà in coalizione il Partito Popolare con i fascisti di Vox, e nonostante questo loro, diciamo, moderato ottimismo, io credo che i giochi sono ancora in parte aperti. Detto questo, è vero anche che non c'è lo spirito, diciamo, quello che in spagnolo si chiama la illusion, che c'era nella sinistra 3 anni e mezzo fa. Potrebbero anche farcela, ma senza illusion, il che come sempre per la sinistra non è una buona notizia. Sì, da questo forse vorrei partire dopo i primi vostri interventi, ossia insomma negli ultimi anni, come minimo fino al 19 o al 20, quando a gennaio si formò il primo governo di coalizione di sinistra della storia della Spagna, dai tempi della Seconda Repubblica, insomma il governo Sánchez con nel Consiglio dei Ministri anche Pablo Iglesias e altri membri di Unidas Podemos, insomma venivamo parlando da almeno al 2011 di un ciclo che era quello, diciamo, del cosiddetto movimento degli Indignados, del 15M, no? Ecco, questo ciclo si è definitivamente chiuso, ormai questo è certo, c'erano avvisaglie fin dal 2019 o anche magari dal 2016, soprattutto nel contesto, nella cornice europea, che invece sembrava insomma più spirare verso destra, o ancora meglio verso l'estrema destra. Ecco, insomma, la Spagna adesso si è riallineata a quella che è un po' la tonica generale europea. Paola, tu cosa ne dici, pensando anche alla sinistra spagnola degli ultimi 10 anni? È finito un periodo, ne sta cominciando un altro, e semmai che periodo è? Allora, io sì che sono d'accordo sul fatto che c'è un ciclo che si sia chiuso, come mio, diciamo, nei suoi epifenomeni più evidenti. Però la domanda che io mi faccio è, diciamo, se e fino a che punto quel movimento e quello che si è derivato da questo movimento ha in qualche modo segnato la cultura politica del paese, no? Io credo che la questione di queste elezioni un po' si gioca anche su questo, e lo dirò chiaramente, io credo che il fatto che i cicli si chiudano sia una cosa anche normale, insomma, forse pure per il mestiere che io faccio. Io ho a che fare con persone fra i 20 e i 30 anni, e ovviamente per loro come dire, anche l'Indignados o il 15M è preistoria, insomma, roba dei loro zii o delle loro zie, per cui non credo che sia una, come dire, una questione di per sé negativa, no? Una questione naturale. Il fatto, diciamo, che mi chiedo, la questione che mi chiedo, e credo che da questo punto di vista sì che ci siano dell'avvisaglio come minimo di un conflitto in atto, un conflitto, diciamo, dagli esiti incerti, sia il fatto che la sinistra nel suo insieme, e qui sto pensando anche al Partito Socialista, è stata segnata da quel ciclo. Quindi la grande questione, secondo me, che si vedrà in queste elezioni è fino a che punto ha penetrato nel profondo, come minimo di una parte del senso comune della società spagnola, no? E credo che, come diceva Luca, da questo punto di vista i giochi siano in qualche modo aperti, no? I risultati elettorali sono è come se uno mettesse un termometro a un certo punto, proprio ci sono delle correnti di fondo. Quindi la domanda che io mi faccio, e ripeto, credo che da questo punto di vista siamo di fronte a un conflitto fra settori diversi della popolazione, fra settori diversi che hanno culture politiche diverse, anche sull'eredità, in qualche modo, su quanto ha cambiato quel movimento, la cultura e la politica del paese. Ecco, a questo proposito, insomma, parlavi di termometro, ecco, ne abbiamo avuto uno meno di 2 mesi fa con le elezioni amministrative del 28 maggio. Ecco, quel termometro ha, insomma, fatto capire che la temperatura era un po' cambiata rispetto a 3 anni, 4 anni prima, no? E Luca, volevo domandare a te a questo proposito. Insomma, il governo di sinistra, di coalizione Sánchez-Iglesias, come si chiamava nel primo anno, fino alle dimissioni dell'ex vicepresidente e fondatore di Podemos, insomma, ha fatto bene in fin dei conti. Insomma, l'agenda progressista che avevano presentato all'inizio della legislatura, bene o male, e in un contesto molto complicato, pandemia, crisi energetica, invasione russa dell'Ucraina, eccetera, insomma, si è portato a compimento. E tra l'altro, insomma, anche i dati macroeconomici, prima Paola accennava anche a questa questione, sono positivi. Insomma, il numero più basso di disoccupati dalla crisi del 2008, insomma, il PIL che cresce più della media europea, eccetera, eccetera. Insomma, ma perché allora l'elettorato di sinistra il 28 maggio è andato a votare meno, e a quanto pare, per quanto, insomma, entrambi dicevate giustamente che la partita è ancora aperta per il 23 luglio, insomma, ci sono avvisaglie che probabilmente, insomma, andranno a votare meno persone per la sinistra rispetto a 4 anni fa. E come mai, insomma, la gente di sinistra non è andata a votare i socialisti o Unidas Podemos? Ma molto francamente io non ho una risposta a questa domanda che mi sto facendo anche io in queste settimane, in questi mesi. Diciamo, è ovvio che se i parametri di lettura della realtà fossero quelli che tu hai suggerito, sostanzialmente, per dirlo, diciamo, in maniera sintetica, dei fatti e dei numeri, che sono le due cose che a me piacciono molto, è ovvio che razionalmente non ha molto senso il fatto che così tanta gente nella sinistra sia scontenta, no? Nel senso che i sentimenti non si possono discutere, per cui se una persona è frustrata, non possiamo discutere questo, però osservando appunto i dati, il programma, quello che si è fatto, ci sarebbero ottime ragioni per pensare che comunque, insomma, con tutti i limiti, con tutti gli errori e con tutte le perplessità che si possono avere su questo o su quell'altro aspetto, obiettivamente è un governo che in una situazione assolutamente straordinaria ha governato ragionevolmente bene e ha fatto cose ragionevolmente di sinistra. Non stiamo parlando di rivoluzione bolscevica, naturalmente, però per esempio un dato che ho letto ieri, che per me è molto emblematico di tutto questo, è che secondo gli elettori e le elettrici di sinistra, non so più in che inchiesta, perché poi queste cose qui bisogna anche dargli il peso che hanno, ma insomma, quindi non so quanto affidabile fosse questa inchiesta, però mi è sembrato interessante il fatto che venisse fuori che fra tutte le leggi varate da questo governo, la legge del solo sì e sì è quella più osteggiata dagli elettori di sinistra, non da quelli di destra. E secondo me questo è un fatto molto emblematico, perché la legge del solo sì e sì, che ne dica la stampa, i giornalisti, la destra, tutti quelli che vogliamo, è una buona legge, è una legge molto avanzata, molto progressista, molto anche rivoluzionaria nella sua impostazione, che forse non mi è ancora del tutto chiaro, perché io non sono un giurista, ma non mi sono ancora formato un'idea del tutto, non sono del tutto convinto, forse è possibile che contenesse qualche, diciamo, incertezza dal punto di vista legislativo, tecnico, diciamo, però nel complesso è un'ottima legge, ed è una legge di sinistra, è una legge che il femminismo potrebbe rivendicare come sua, ma la stessa leader di Sumar, che è, diciamo, la coalizione dei partiti a sinistra del Partito Socialista, la stessa leader di Sumar non ha mai difeso, e tanto è così che addirittura, diciamo, la persona più emblematica che l'ha portata avanti, che era Irene Montero, l'attuale ministra dell'uguaglianza, è stata fatta fuori dalla coalizione. Il che secondo me è molto significativo per dare una risposta alla tua domanda: perché le persone di sinistra non riescono a capire, a vedere, a sentire, soprattutto sentire, che questo è il migliore governo possibile, date le circostanze, non in assoluto, ma relativamente parlando. E, certamente il ruolo che giocano i media di destra e la guerra, diciamo, che i poteri forti hanno fatto a questo governo sempre, che è la stessa cosa che è successa anche nel piccolo qui a Barcellona, insomma, no? Certo. Com'è possibile non vedere che il governo di questi ultimi 8 anni di questa città ha migliorato enormemente la qualità della vita in questa città? Per me è molto difficile cercare di spiegarmi come mai, eppure moltissima gente ha questa percezione. Sicuramente i poteri forti hanno un ruolo, sicuramente, diciamo, alcuni errori sono stati forse ingigantiti, però una risposta a questa domanda esatta non te la so dare. Paola, da questo punto di vista? No, io semplicemente volevo fare, diciamo, una piccola notazione, perché penso che su questa questione della legge del solo sì e sì pesa sicuramente, come dire, la campagna di stampa, però pesa secondo me anche, come dire, un equivoco, nel senso che in ogni caso in qualche modo la polemica nei confronti di Irene Montero c'è sicuramente da parte della destra, per ragioni, come dire, di guerra culturale evidentemente nota, però più che per il contenuto io ritengo che sia per una questione, diciamo, che ha a che vedere con la gestione politica di quella legge, che sta una gestione politica in qualche modo come dire, complicata, assolutamente complicata. E se uno prende in qualche modo l'esempio, fa il parallelismo con il lawfare, cioè con la lotta fatta nei confronti della sindacessa di Barcellona, che è stata, come dire, fortissima, secondo me nel fatto che viceversa tutta la sinistra abbia difeso in maniera molto chiara l'operato della sindacessa di Barcellona, non c'è tanto, non c'è solo, diciamo, il contenuto, ma c'è anche il metodo. Questo secondo me è una questione, diciamo, di cui tenere conto. Allora, se la domanda è perché una parte della sinistra, dell'elettorato di sinistra, non ha tanta voglia di andare a votare, è anche perché la conflittualità a sinistra si paga e si paga in maniera molto chiara. E la questione della legge del solo sì e sì, o la vicenda, come dire, la traiettoria politica di Irene Montero, risente anche di questa, del fatto che sia stato, diciamo, uno degli elementi, a torto o a ragione, di un conflitto che va al di là, come dire, della legge, ma che tocca le relazioni, diciamo, fra le diverse componenti della sinistra, anche rispetto al progetto di cosa si vuole sia la sinistra, cosiddetta sinistra, la sinistra del PSOE. Questo mi sembra un elemento, come dire. Sì, queste mi sembrano entrambe questioni molto interessanti, perché in fin dei conti, insomma, abbiamo una situazione in cui l'elettorato di destra è ipermobilitato, e lo sarà sicuramente, insomma, da quanto pare anche il 23 luglio, mentre un elettorato di sinistra che invece, ecco, non è così mobilitato, non c'è quella illusione che dicevi tu prima, Luca, come nel 2015 o nel 2019. Ecco, tra le cause, e credo che questo, appunto, per questo mi voglio anche un attimo concentrare qui e cercare un po' di sviscerare, se possibile, questa questione. Ecco, tra le cause che si sono ascoltate a causa della sconfitta della sinistra il 28 maggio scorso, una è appunto quella delle divisioni alla sinistra dei socialisti, quindi tra Podemos e la piattaforma Somar, insomma tra Yolanda Diaz e Iglesias e Montero, insomma, per personalizzare un po' la questione, e dall'altra un'altra questione è anche quella: ma il governo ha fatto bene, però se non ha saputo comunicare così bene, ecco. E per ultimo un'altra questione anche che si menziona è il fatto: Sanchez ha sbagliato la campagna elettorale delle amministrative, perché, diciamo, ha comprato il frame che voleva imporre, è riuscito a imporre il Partito Popolare, di dire trasformiamo queste elezioni in un referendum su quello che chiama la destra il sancismo. Ecco, insomma, Luca, Paola, su queste questioni qua, brevemente, voi come la vedete? Allora, sul fatto che Sanchez probabilmente sia sbagliato sul come abbia impostato, come dire, la campagna elettorale, non c'è dubbio, e credo che anche molti dirigenti locali, regionali, socialisti, diciamo, siano stati particolarmente disorientati pure da questa scelta. Io sto pensando, come dire, ai casi, per esempio, della comunità autonoma valenziana o dell'Aragona, insomma, posti in cui effettivamente i socialisti avevano governato bene, si sono trovati anche i socialisti, la sinistra in generale aveva governato bene, si sono trovati a fare campagna elettorale su questioni che non avevano a che vedere con quella, no, con quelle consultazioni amministrative o regionali, no? Una questione diversa, e questo c'è proprio, come dire, un dato, se vogliamo addirittura aritmetico, è che laddove la sinistra, diciamo, si è presentata divisa, la sinistra del PSOE si è presentata divisa, c'è stato proprio un limite, come dire, aritmetico, per cui ci sono stati un sacco di voti sprecati, no? E sicuramente la polemica di quale progetto e della configurazione anche proprio, come dire, organica di questo progetto, secondo me ha pesato, e ha pesato tantissimo. Ha pesato meno, paradossalmente, laddove questo, diciamo, questo contenzioso sul come presentarsi e quali sono le forze che partecipano, c'è stato meno. Un dato: i migliori dati di Unidas Podemos in giro per la Spagna sono di quelle zone in cui Podemos stesso, diciamo, si era in qualche modo manifestato più a favore della confluenza con il nuovo progetto di Yolanda Diaz, e questo secondo me è un dato politico che va, del quale, insomma, bisogna tenere conto. Laddove si è rotto, e si è rotto in maniera anche, come dire, molto evidente, anche molto, come dire, propagandata, i risultati sono stati quelli che sono. Luca, a questo proposito? Io sulla teoria che bisogna comunicare meglio, insomma, bisogna sempre comunicare meglio, questo è un dato di fatto, però non credo che sia quello il fattore. Certamente quello che dice Paola è un dato di fatto, e di nuovo ha a che vedere, alla fine, quello che uno vota in realtà sono molto le percezioni, no? E quindi la percezione, appunto, di unità, di illusione, torniamo sullo stesso tema con cui abbiamo iniziato, certamente quello aiuta molto a vedere una motivazione, no? Il fatto che Sanchez abbia sbagliato del tutto in parte la strategia della campagna elettorale, è molto evidente dal suo cambio radicale nella gestione per esempio dei media che sta facendo in questa campagna elettorale, in cui sta avendo un approccio molto aggressivo e vuole apparire da tutte le parti, no? E che secondo me probabilmente è una strategia corretta, perché gli avversari sono molto più fragili nel confronto, no? Però non so se appunto la mancanza di comunicazione è la chiave, no? Probabilmente è molto legato anche al fatto che il mondo attuale è sempre più complesso, la lettura, l'interpretazione dei fatti richiede un livello di complessità e un livello anche di stanchezza mentale per cercare di interpretare delle questioni molto complesse, come possono essere una pandemia, come possono essere dei fattori macroeconomici, come possono essere la questione del cambio climatico, no? Ci vogliono delle chiavi di lettura o un cambio, diciamo, di paradigma, come può essere quello, diciamo, portato avanti dalle lotte femministe. Richiede comunque uno sforzo che forse molte persone non hanno le risorse, il tempo, la necessità anche di fare. Quindi la lettura semplicistica delle questioni, il sancismo, che non sappiamo molto bene che cosa sia, ma comunque suona molto bene, o così, anche per esempio un campo, a parte questo del femminismo e a parte il campo LGBT, che è un campo che mi è molto a cuore, un altro campo molto tipico dove le letture semplicistiche sono quelle che vincono è quello dell'educazione, per esempio, no? Adesso oggi leggevo che nel programma di non so quale comunità, mi sembra le Baleari, dove il PP e Vox si sono messi d'accordo, hanno scritto una serie di cose assolutamente assurde sulla questione dell'educazione, che in cui sembra di sentire parlare, non lo so, i nonni dei nonni, no? Non delle persone che vivono nel secolo XXI. Insomma, purtroppo c'è questa difficoltà e c'è questa necessità di pedagogia che alcuni politici, il Pablo Iglesias di tempo fa, o un Alberto Garzón, o la stessa Ada Colau, sentivano come molto importante, no? Questa necessità di spiegare le cose, e che adesso forse nell'epoca dei tweet, degli stasca o delle risposte che non devono superare i 30 secondi, è molto più difficile trasmettere appunto la complessità delle cose. A questo proposito, Luca, ti rilancio con un'altra questione. Prima parlavamo della legge del sì, solo sì e sì. Insomma, si legge o si è letto, qualcuno sostiene che una delle cause anche di questa poca mobilitazione dell'elettorato di sinistra sia perché le divisioni dentro il femminismo alla fine, insomma, hanno pesato, no? E su un'altra legge di cui molto si è parlato, è la cosiddetta legge trans, anche lì abbiamo visto una divisione nel movimento femminista. Ecco, secondo te quei dibattiti, quelle tensioni, quelle divisioni che hanno rappresentato un po', diciamo, il settore più vicino al Partito Socialista da una parte, più vicino invece a Unidas Podemos e al gruppo, diciamo, vicino anche Irene Montero dall'altra, i relativi movimenti, no? Eccetera. Ha pesato in realtà o no? O è una ricostruzione che sta facendo la destra per buttarla così un po', tagliarla con il macete? Allora, premesso il fatto che io non sono un esperto di femminismo, e quindi forse qui non so se Paola vorrà aggiungere delle cose, e spero di non dire nessuna sciocchezza, però il fatto che il femminismo sia diviso, che ci siano diversi tipi di femminismi e che ci siano diverse maniere di interpretare il femminismo, secondo me è un dato di fatto, ed è un dato di fatto che è sempre esistito, ma in questo periodo storico, durante appunto questa legislatura, è stato particolarmente evidente. E ci sono sostanzialmente due temi su cui la divisione è particolarmente sangrante, come si dice in spagnolo, cioè fa particolarmente male. Uno è senz'altro il tema della questione trans. Allora, apro una parentesi. La legge è stata chiamata legge trans perché c'è un aspetto che riguarda le persone trans, che è molto importante, ma in realtà è una legge che riguarda tutti i temi LGBT. Insomma, sono tantissimi articoli in questa legge che non hanno a che vedere con le persone trans, ma insomma comunque la questione della legge trans, che sostanzialmente dà il diritto alle persone di potersi identificare come vogliono, che mi sembra un diritto veramente molto semplice, però questo è stato un tema che ha generato moltissimo dibattito all'interno del femminismo, essenzialista, che vedeva appunto in qualche modo un pericolo nel riconoscere il diritto delle persone trans a identificarsi come donne, perché poi sono solo le donne trans il problema. Gli uomini trans per il femminismo non sono un problema, sono le donne trans ad essere un problema, il che è anche abbastanza curioso dal mio punto di vista. Ma comunque, quindi questo è uno dei due temi, e qui si è visto molto chiaramente, diciamo, tutto questo scontro che si è un po', diciamo, centrato su Podemos verso i socialisti, che poi non era una divisione così netta, ma insomma però era un po' così. E poi c'è un altro tema che è ancora molto molto molto molto scottante, che è la questione della gestazione surrogata, che è un tema che secondo me è molto interessante, perché in Italia è molto chiaro che chi è contro la gestazione surrogata è soprattutto la destra, e lo stiamo vedendo con tutte le iniziative che sta prendendo il governo Meloni contro in generale il mondo LGBT, e anche in particolare contro anche la gestazione surrogata. Invece qui in Spagna è un tema su cui è soprattutto contraria una parte della sinistra, che è la sinistra che si identifica più con Podemos, e quindi anche una parte del femminismo che magari è disponibile rispetto alla questione trans, ma non è disponibile rispetto alla gestazione surrogata. Questo è un tema molto ampio che si potrebbe aprire e merita un'altra puntata intera, insomma non voglio entrare in questa questione qui, però è ovvio che questi scontri, che sono nell'ambito del mondo del femminismo, ma che però entrambe le questioni toccano anche altri alleanze storiche del femminismo, che sono appunto con il movimento LGBT, secondo me queste non hanno fatto molto bene la sinistra, e di fatto diciamo che stiamo pagando secondo me le conseguenze. Paola, rilancio con un'altra questione, o volevi aggiungere qualcosa a riguardo? No, io la cosa che volevo aggiungere è che in realtà credo che le due questioni non sono tanto queste, o meglio, sulla gestazione per altri, secondo me il consenso della sinistra o di una parte significativa del femminismo contro, io credo che sia abbastanza chiaro. L'altra questione sulla quale c'è stato, perché pure lì un dibattito fortissimo, un conflitto fortissimo, è l'abolizione della prostituzione. Insomma, in ogni caso la criminalizzazione del lavoro sessuale. Però sono due temi molto legati in realtà. Cioè, è vero, la questione della prostituzione, hai ragione che è uno dei punti anche di scontro, no? Ma in realtà, ripeto, questo aprirebbe un dibattito molto grande, che se volete non ho paura di entrarci, solo che forse un'altra puntata lo facciamo. Però in realtà la questione della legalizzazione della prostituzione, quindi del dare il diritto o no alle donne di scegliere sul proprio corpo, anche in un contesto in cui lo sfruttamento della prostituzione è una realtà, questo è un dibattito che in realtà sono due dibattiti che secondo me sono molto legati l'uno all'altro, anche se molte donne, probabilmente molte femministe, non la vedono così, però secondo me sono molto legate. Io non la vedo così, però comunque ritorniamo un momento Non la vedo ben bene. Ritorniamo un attimino sul, è un tema interessantissimo, ci torneremo dopo l'estate sicuramente con un'altra puntata, però tornando invece alle elezioni, ecco, vi chiedo di essere telegrafici perché ci arriviamo un po' alla fine di questa parte del programma, se possibile. Paola, un'altra questione, si diceva prima, i dati macroeconomici sono buoni, però in realtà sembra che l'economia, quando l'economia va male, pesa sul voto della gente che castiga il governo, quando invece va bene invece sembra di no. Ma allora forse la questione, bisogna aggiungere anche un altro elemento, è che questi buoni dati macroeconomici non arrivano a tutti, in realtà non li percepiscono. Tu come la vedi da questo punto di vista? Su questo non c'è dubbio che ci sia una distanza a volte molto molto grande, anche se io questa cosa la voglio vedere, perché in realtà prima Luca citava qualche studio d'opinione, no? Ci sono già diversi, come dire, studi del FIS, cioè dell'organismo, diciamo, ufficiale, che una delle cose che captano è il fatto che c'è una divergenza molto forte fra chi dice che l'economia va male e però chi dice che la sua economia va bene. Quindi c'è in qualche modo una, come dire, una divergenza di percezioni, no? Quindi io su questo punto sono un po', come dire, la prenderei un po' con le molle, perché in realtà adesso dirò una cosa che è un po' strana, ma insomma una delle questioni secondo me che aiutano a spiegare per esempio un successo come quello greco dell'attuale primo ministro di Mitsotakis, ha a che vedere con questo, cioè col fatto che poi bisognerà vedere nel segreto dell'urna. No, anche tanta narrativa sul fatto che le cose vadano male, poi se si traduce o non si traduce, sì, questo lo sapremo soltanto il 24 mattina. Luca, invece, secondo me questa questione della narrativa è molto importante, quanto la narrativa poi influisce davvero, sono d'accordo con quello che dice Paolo. Altra questione, Sanchez sembra aver giocato la campagna elettorale sulla paura dell'estrema destra. Questo funzionò soprattutto nell'aprile del 19, molti dicono, insomma, alla seconda volta non funziona più tanto. Cosa ne pensate? Luca, cominciamo da te. Io sinceramente penso che sia giusto fare una campagna in questo senso, forse perché io ho molta paura, penso di non aver mai avuto così tanta paura come ce l'ho adesso rispetto ai risultati, perché lo stiamo già, cioè la fortuna che abbiamo tra virgolette in questo momento è che non si possono nascondere dietro un dito, già lo vediamo quello che stanno facendo, già vediamo che tipo di accordi raggiungono e già vediamo quali sono le loro priorità politiche, e queste priorità politiche sono priorità distruttive, sono priorità che vanno contro le persone, che vanno contro molte persone che non rispondono ai canoni che loro vogliono, e secondo me il fatto che sia molto evidente è importante da mettere in luce. Ora, non credo che questo sia sufficiente, cioè non basta dire arriva il lupo, bisogna anche offrire qualche cosa di diverso, però secondo me la paura, se non c'è, ci dovrebbe essere. Questo è il mio punto di vista. Paola? Allora, io credo che la questione è in qualche modo concretizzare sia la paura sia la speranza. Io credo che una campagna diciamo di tipo antifascista, fra virgolette, classica, come dire, molto teorica o molto dichiarativa, non funziona da nessuna parte, e addirittura, diciamo, può avere un effetto boomerang per quest'idea per cui come dire, diventa di moda rivendicare quello che, no, quello che viceversa è stato per tanto tempo censurato, no? Però la cosa cambia se la paura, diciamo, diventa una questione, come dire, si riesce a trasmettere l'idea che la tua vita di ogni giorno può peggiorare o migliorare, e su questo è vero che come dire, ci sono già esempi di come può peggiorare, no? E quindi forse come dire, la chiave è riuscire a concretizzare questa paura con esempi e con, diciamo, questioni molto molto concrete e molto tangibili. Dopodiché io viceversa credo che uno debba fare una campagna molto più giocata sulla speranza, no? Sul fatto che insomma, al di là delle questioni, come dire, del trionfalismo che per cui è stato accusato il presidente Sanchez, che secondo me pure lì è una cosa, come dire, probabilmente sbagliata, però sì che dalla capacità di disegnare orizzonti di speranza dipende una parte importante di questo voto, no? Eppure lì probabilmente uno deve essere in qualche modo concreto, no? Dire esattamente verso dove si va, no? Sì, Sì. La campagna elettorale è cominciata ieri, ci sono due settimane cariche appunto di dibattiti, di meeting, vedremo quali saranno anche i temi che salteranno fuori magari inaspettati in campagna elettorale. Si vota tra poco più di due settimane, il 23 luglio, e gli scenari sono ancora aperti, per quanto insomma sembrerebbe che la destra insieme dei popolari, insieme all'estrema destra di Vox, abbia forse i numeri per governare, una maggioranza parlamentare, però ancora non è detta l'ultima parola, e addirittura anche lo spettro di una ripetizione elettorale per una mancanza di maggioranze nelle Cortes di Madrid è possibile. Un'ultima battuta rapidissima, 30 secondi Luca e anche Paola, poi quali sono secondo voi le chiavi di lettura di queste elezioni, ossia cos'è che bisogna tenere presente da qui al voto e soprattutto nella lettura poi del voto? Allora, secondo me la chiave ovvia e più importante è vedere, diciamo, la somma dei voti fra PP e Vox e fra i socialisti e Summargeon. Questa è la prima chiave di lettura. Penso, forse spero, che nessuno dei due raggiunga la maggioranza assoluta, e quindi a quel punto bisognerà vedere come gestiscono i partiti minori e la scelta fra le due opzioni. La seconda cosa che io guarderei è il risultato assoluto sia dei socialisti sia di Sumar. Se Sumar per esempio arriva al terzo posto invece che al quarto posto, questo è un risultato importante. Se supera diciamo i voti che aveva Podemos nelle ultime elezioni, anche questo è un risultato importante. Se i socialisti più o meno tengono, almeno in valore assoluto, è un risultato importante. Se Vox scende come quantità di voti in assoluto, anche questo è un risultato importante. Queste sono le cose che io osserverei. Bene, grazie Luca. Paola? Io osserverei tutte queste, però osserverei pure il dato territoriale, che secondo me sarà un dato importante, perché in qualche modo qui ci possiamo trovare con vari clivage, no? Che sono i classici, se vuoi, della Spagna, come dire, della costa e della Spagna interna, sono dei clivage, diciamo, più, come dire, più stringenti, come sono quelli della Spagna più popolosa e quella della Spagna meno popolosa, i clivage più classici della Spagna più povera e quella meno povera, in qualche modo. Anche perché diciamo, questo è un elemento, io credo, che funziona un po' anche in Italia, ma in Spagna mi sembra di capire che funziona ancora di più, sono gli assi, cioè le alleanze. Capire se è detto che una delle questioni importanti del voto amministrativo è che la Comunità di Valencia sia passata alla destra. Perché? Perché in realtà è vero che nel progetto politico, per esempio di José María Aznar, dalla seconda metà degli anni 90 c'è stato questo asse fra Madrid e Valencia. Certo. Diciamo che il territorio, per quello che riguarda la Spagna, secondo me conta, sì. È contatato. Eh sì, sono elementi di cui tenere conto. E tra l'altro un altro di cui forse non abbiamo parlato, ma che è una grande incognita, sarà la partecipazione elettorale. Incognita che ormai è generale in qualunque consultazione degli ultimi tempi, con altri livelli di astensione, ma ancora di più nel mezzo dell'estate, un 23 luglio. Lo scopriremo solo vivendo, come diceva il poeta, e tra poco più di due settimane. Luca Tancredi Barone, giornalista, collaboratore del Manifesto, Paolo Locascio, docente di storia contemporanea presso l'Università di Barcellona, grazie davvero di essere tornati a trovarci qui a Zibaldone, vi aspettiamo presto. Grazie, buona serata. Buona serata, grazie. Bal hozin reş heva yadiler zinin evren tarina helenem bebinin tevi kumerin uzor il benda medbin beruha hefalti emir ster baskin. Notte nera, ci si vede appena, questa è la frontiera, la barricadera. Quando entriamo in scena siamo un fiume in piena, alza la bandiera cara compagniera. il cuore in mano, un coraggio strano che ci ritroviamo, che non ci spieghiamo, stranieri nei luoghi che amiamo, li chiamiamo, loro ci chiedono che armi abbiamo, strade, montagne, casali in mezzo ai campi, si tracciano sentieri, si perdono compagni, trucidati ieri vivranno nei nostri canti, forti nei pensieri degli altri che vanno avanti, all'improvviso ma non improvvisiamo, in ogni viso un sorriso che conosciamo, noi siamo il vecchio e il bambino cui raccontiamo le storie, quelle eterne del ribelle partigiano. La strada racconta una storia di sangue, fa smorfie e beffarde a chi ancora non sa, da Belfast a Gaza, da Reggio Alicante, seguimos luciando per la libertà, col vino dei vecchi, col latte dei bimbi, coi denti scoperti, col vento che fischia, sorriso di donna che ti dice dimmi, ed ogni emozione che hai dentro si mischia, solo potessimo riderne ancora, avere accanto Guevara e Sankara, solo trovare una nota che suona prima che l'ultima lacrima cada, fuoco che crepita, notte in montagna, voci sussurrano questa ballata, luci si specchiano sulla chitarra, sono i mattoni della barricata. Alas barricadas, alas barricadas, por el triunfo de la confederación. Alas barricadas, alas barricadas, por el triunfo de la confederación. Con la bandiera degli ultimi addosso, so la sconfitta ma non so la resa, non per il mio, solo per ciò che è nostro, musica magica, fiaccola accesa, alzo il cappuccio della felpa nera, forse stanotte non ci tradirà, la fiamma è rossa come primavera, chi più ne parla e chi meno ne sa, versami ancora quel sorso di sogni, se troppo spesso ne sono ubriaco è meglio il delirio di chi riempie fogli, di chi sta bene a servito allo Stato, luci dell'alba, mattino in montagna, si è fatta forte anche questa ballata, oggi per armi avrò voce e chitarra, sono i mattoni della barricata. Nere tormente agitano l'aria ancora, come allora non vediamo niente, non vediamo l'ora di prendere il padrone per la gola, per fargli pagare a lui i tempi bui e non a chi lavora. Il nemico attuale è ancora uguale a quel che combattemmo sui montagna o coi compagni in Spagna, uguale all'antagonismo naturale, all'arroganza patriarcale, al capitale che comanda, col parapello in spalla, caricato a palla, con gli stessi cori, siamo la canaglia, siamo i malfattori, come nei canti di Pietro Gori, la pace tra gli oppressi, la guerra agli oppressori, siamo lavoratori che padroni non vogliamo, disertori, figli del pensiero libertario, insorgeremo contro ogni impero, contro ogni armata, nostra patria e mondo intero, compagniero. Alla sbarricata alza la bandiera rivoluzionaria, che del triunfo sin cesar nos lleva en paz. Alza la bandera rivoluzionaria, che del triunfo sin cesar nos lleva en paz. بدلو وينا مدابن هفال باوك صالاري ودولة داوي بكن ورن باريكادان ورن باريكادان جبو سركفتنا كونفدراسيون ورن باريكادان ورن باريكادان E la canzone che ci siamo sentiti orora è un'altra delle vincitrici della Targa Tenco, meglio dire il disco in cui è contenuta è Nella notte ci guidano le stelle, canti per la resistenza, pubblicato da Squilibri Editore, il produttore è Mimmo Ferraro. Questo disco è il vincitore della sesta Targa, la Targa Tenco a progetto di questo 2023. Il brano che ci siamo ascoltati era Alas Barricadas 2023, interpretato da Kento, Bestie Rare e Serat Akbal, un disco molto bello, ne magari riparleremo in autunno quando anche insomma si terrà la prossima rassegna della canzone d'autore ad ottobre a Sanremo e sarà premiato anche questo disco. E ora invece cambiamo completamente di genere, di tema, e andiamo ad ascoltarci questo brano, vediamo se lo riconoscete, preparatevi un po' a ballare. Questa ovviamente è la voce di Donna Summer, una canzone che ha fatto ballare generazioni, le fa ancora ballare, Love to Love You Baby. Perché mandiamo in onda Donna Summer? Perché parliamo in questa seconda parte di Zibaldone insieme ad Andrea Angeli Bufalini e Giovanni Stavastano, a cui do subito il benvenuto. Un piacere avervi con noi, Andrea e Giovanni. Ciao, buongiorno Steven e tutti gli ascoltatori. Un grande piacere appunto per parlare di questo vostro ultimo libro, la vostra ultima fatica, Donna Summer, la voce arcobaleno da disco qui in Icona Pop, che è uscita qualche mese fa con una prefazione di Pete Bellotte per Coniglio Editore. Un libro non solo da leggere ma da guardare, da sfogliare, è ricco di fotografie, di aneddoti, di informazioni, insomma è veramente una biografia meravigliosa di Donna Summer, che ci riporta a una figura che davvero, come dicevo prima, ha fatto ballare non solo con Love to Love You Baby ma con altri grandi successi e tante hit, milioni e milioni di persone le fa ancora ballare. Andrea, comincerei subito da te, perché un libro su Donna Summer nel 2023? Allora, un libro su Donna Summer innanzitutto ci voleva perché abbiamo coperto una lacuna, un vuoto editoriale, in quanto questo è il primissimo libro di Donna Summer non solo in Italia ma in tutta Europa. Il motivo di questa lacuna è presto detto: purtroppo gli artisti afroamericani sono, non so, meno celebrati, soprattutto a livello editoriale, e quindi noi stiamo cercando di riparare in qualche modo. E poi un altro motivo è quello che dopo l'altro nostro libro, La storia della disco music, edito da Epli, uscito 3 anni fa, bellissimo, è andato molto sottolineo bene. Tra l'altro, sì, bellissimo, sì, fondamentale. Tra l'altro in questi giorni, se posso dirlo, proprio su Amazon siamo di nuovo al primo posto nella classifica musica dance libri, quindi sta ancora avendo un grande successo, è un best seller proprio dichiarato dalla casa editrice. Speriamo quindi di fare altrettanto con questo nuovo su Donna Summer. Insomma, siete passati, Andrea, dall'enciclopedia, per così dire, della disco music, con anche, ricordo, insomma, anche tantissime chicche nel formato, appunto, quello della Apple editore, a un focus più particolare su Donna Summer, è così, no? Sì, il focus ovviamente andava specificato, e appunto abbiamo dedicato questo nuovo volume alla regina della disco music, ovviamente alla sovrana, però in realtà Donna Summer è stata molto di più. Non è un caso che nel sottotitolo noi specifichiamo che è stata proprio un'icona pop, e nel libro si capisce il perché. È stata una carriera incredibile, 150 milioni di dischi venduti, un Oscar, 5 Grammy, e poi a prescindere dalle vendite e dai numeri, che sono appunto assolutamente strepitosi, Donna Summer è stata veramente un personaggio importante per vari motivi, anche per a livello sociale, a livello di rivoluzione nel mondo femminile, nel mondo degli emarginati e di varie categorie cosiddette minori, ma in realtà poi minori non lo sono affatto, quali appunto gli afroamericani, gli omosessuali, i portoricani, eccetera. È un po' quello che diciamo nel libro sulla disco music, che appunto la disco music è stata un movimento rivoluzionario di aggregazione sociale e di eguaglianza. Sì. Quindi con Donna Summer ovviamente abbiamo celebrato tutte queste categorie. Certo, questo è appunto è un tema importantissimo. Giovanni, a questo proposito direi che ci sono delle cose che magari molti non conoscono di Donna Summer. Ovviamente noi non le sveliamo tutte, perché così invitiamo anche a comprarsi il vostro libro, che le spiega molto belle. Ma per esempio le radici artistiche di Donna Summer, che viene tra l'altro dal rock psichedelico anche. Insomma, è una cosa che magari dicono, Donna Summer rock psichedelico, magari alcune persone non mettono insieme queste due cose, no? Sì, esatto, è così, perché poi essendo lei celebrata come la regina della disco music, nella metà degli anni 70 questo genere musicale sembrava che fosse un'invenzione a tavolino di produttori come Giorgio Moroder e tanti altri, che quindi gli artisti fossero delle creature inventate così dal nulla. Invece lei aveva una carriera di tutto rispetto già prima dell'esplosione di Lots Love You Baby. Se pensiamo che lei era originaria di Boston, inizia in chiesa come tutti gli artisti afroamericani, poi a New York negli anni 60 è una hippie, per cui sta a Washington Square e con tutti gli hippie fa jam session sulla piazza, dopodiché fa parte di un gruppo, The Crow, che era un gruppo di rock psichedelico che si esibiva nello stesso locale dove cantava Janis Joplin, che lei conosce e vede dal vivo molte volte e per la quale rimane estasiata. Quindi tutto questo poi la porta a fare un provino per il musical Hair, avrà una parte in Germania nel musical, nella versione tedesca di questo musical, e da lì il resto è storia, perché doveva tornare in madrepatria dopo 6 mesi di quel musical in Germania per 9 anni a cantare in tantissimi altri contesti, sempre rock, fino a che incontra Giorgio Moroder e Pete Bellotti. Ecco, tra l'altro, che lo dicevo prima, la prefazione è appunto di Pete Bellotti, e l'incontro con Moroder, insomma, questo sì che si conosce di più, però è un incontro chiave appunto per la vita di Donna Summer, ma anche per la trasformazione della musica in buona misura e anche della musica disco. Andrea, vuoi spiegare qualcosa di più a riguardo agli ascoltatori, l'importanza che ha avuto Moroder anche per il fenomeno Donna Summer come icona pop? Allora, Moroder è stato ed è tuttora un emblema della musica disco, ma non solo, perché lui praticamente ha traghettato la musica elettronica nel pop. Già le prime avvisaglie di musica elettronica erano agli inizi degli anni 70 con i Kraftwerk, questo gruppo tedesco, che però non privilegiava anche le voci, erano brani assolutamente sperimentali fatti di suoni, mentre Moroder ha voluto abbinare questi suoni così apparentemente freddi dei sintetizzatori con una voce calda, umana e molto sensuale, quella di Donna Summer. Quindi questa accoppiata di macchina e soul e anima è stata veramente rivoluzionaria. Basta pensare ad un brano come I Feel Love, si capisce che, a parte che è un brano del 77 ed è ancora attualissimo, poi è stato ipercampionato, copiato, rubato, citato, eccetera. Però ecco, con I Feel Love veramente c'è stato un cambiamento epocale nella musica pop popular del secolo scorso, e da lì in poi la musica non è stata più la stessa. Noi lo scriviamo sia nel libro sulla disco music che in questo su Donna Summer, che non ci sarebbero stati tutti i vari gruppi dell'epoca synth pop, quali Pet Shop Boys, ma gli stessi Ultravox, oppure i Depeche Mode, i New Order, eccetera, eccetera, se Moroder non avesse creato insieme a Donna Summer, a Pete Bellotti, questo brano veramente innovativo come I Feel Love. Ecco, parlavamo del 1977, voi tra l'altro proprio nelle prime pagine del volume citate Giorgio Moroder, che al riguardo dice: quando Neil Bogart fece ascoltare ad un party il demo di Love to Love You Baby, la gente impazzita chiedeva di risuonarlo in continuazione. Insomma, lì, come dire, capiscono anche loro che hanno costruito qualcosa che sta segnando davvero una svolta. Sì, poi quel brano Donna Summer l'aveva registrato quasi per scherzo, non aveva nessuna intenzione di affidarsi al genere sexy erotico per trovare una sua notorietà, una sua fama, però la situazione, diciamo, le è sfuggita di mano, perché poi Moroder ha portato questo demo, era semplicemente un demo molto corto, 3 minuti, a questo discografico Neil Bogart, e lì appunto, dopo che lui lo suona a questa festa, si rende conto Neil Bogart che il brano deve essere allungato, perché la gente lo richiedeva in continuazione. Quindi chiede a Giorgio Moroder, a Donna e a Pete di ritornare in sala di registrazione. Lei, obtorto collo, lo fa, e viene fuori questa versione di 16 minuti e 50 che sbanca tutto, quindi arriva al primo posto in tutto il mondo, e lei all'improvviso si ritrova al top delle classifiche, quasi costretta a dover poi interpretare un personaggio che è quello della dea sexy, che non era però la persona, e questo sarà poi uno dei suoi dilemmi che noi cerchiamo di spiegare nel libro, un po' quello che era successo a Marilyn Monroe, che poi è una delle sue ispirazioni. Lei non voleva, Donna Summer, rimanere intrappolata in una gabbia mediatica che la costringeva a un ruolo preciso, che era solo uno dei tanti ruoli che lei poteva interpretare anche vocalmente. Sì, come sempre. E poi per inciso... Prego, prego. Ah no, che poi per inciso Donna Summer, prima di Love to Love You Baby, era già famosa nel centro Europa con un LP, Lady of the Night, del 1974, che stava spopolando in Olanda, in Belgio e in Germania. Era un album completamente diverso da quello che poi sarebbe diventato il sound di Summer, Moroder e Bellotti, di questo trio, quindi non era assolutamente disco music, ma era un album composto di Schlager, ossia canzoni tedesche cantate però in inglese, con un sound tra il folk e il country, quindi veramente un mondo completamente diverso. La strada di Donna Summer ha preso poi una via completamente nuova con l'esplosione di Love to Love You Baby. Ovviamente la Casablanca Records, dopo il successo di Love to Love You Baby, ha tenuto nascosto questo album, che non è mai uscito in Inghilterra e negli Stati Uniti e nemmeno in Italia. Ma questo nel libro, insomma, lo raccontiamo, perché è una storia abbastanza anche divertente. È particolare, certo. A proposito di grandi successi, ovviamente noi stiamo facendo una piccola selezione, ed impossibile seguire tutta la carriera. Rimaniamo ancora agli anni 70, prima ci siamo ascoltati Love to Love You Baby, adesso andiamo ad ascoltarci un altro pezzo meraviglioso che è I Feel Love. Poi ritorniamo qui insieme ad Andrea e Giovanni per continuare a parlare di Donna Summer. E questa era I Feel Love, Donna Summer, che ci accompagna in questa seconda parte di Zibaldone, e ci accompagnano ovviamente anche Andrea Angeli Bufalini e Giovanni Savastano, che sono autori di questa fantastica biografia, Donna Summer, la voce arcobaleno da disco queen a icona pop. Continuiamo a parlarne con loro. Giovanni, una cosa magari che può interessare anche i nostri ascoltatori, il rapporto tra Donna Summer e l'Italia, al di là della figura di Giorgio Moroder, raccontaci un po' magari anche qualche aneddoto che avete scovato e scoperto nel lavoro di ricerca per questo libro. Allora, siamo andati a frugare nei nostri archivi, perché tra l'altro poi il libro è formato anche da tantissime fotografie, più di 500, e molte delle quali sono anche dei documenti originali dell'epoca tratti dai giornali, e Donna Summer veramente in Italia negli anni 70 spopolava, tra l'altro dal 75 al 77, quei due anni in cui i suoi album entravano tutti in classifica e in Italia andavano tutti al primo posto. Lei però, per un motivo o per l'altro, che poi spieghiamo bene nel libro, quindi motivi anche seri dal punto di vista personale e familiare, non veniva in Italia, e quindi si cominciò a vociferare che Donna Summer non esistesse, che fosse una creazione di Giorgio Moroder, Pete Bellotti in studio, e che quella bellissima donna che si vedeva sulle copertine fosse soltanto una fotomodella. Quindi si creò veramente questo alone di mistero che in qualche maniera aiutò anche le vendite dei dischi. Poi finalmente nel 77, nell'estate di quell'anno, proprio l'estate di I Feel Love che abbiamo appena ascoltato, Donna Summer arriva e fa una tournée in tutta Italia, che culmina poi nella grandissima data estiva di Bussola Domani a Viareggio, e lì finalmente ci si accorge che altro che se esisteva in carne ed ossa e in voce, perché tira fuori una voce tra l'altro molto più potente e forte di quanto si potesse ascoltare nei dischi, dove doveva fare quella parte di diva erotica che invece dal vivo ogni tanto lei cercava di abbandonare in favore di qualcosa di più coinvolgente per il pubblico, anche da un punto di vista vocale. Quindi diciamo il rapporto con Donna Summer con l'Italia nasce proprio in quell'estate lì, nel 77. E Andrea, invece sulla Spagna, ne parlavamo prima fuori onda, la Spagna è uno dei paesi in cui Donna Summer ha venduto più dischi, no? Sì, assolutamente. Spagna, Italia e tutti i paesi latini hanno celebrato Donna Summer ovviamente nel clou del grandissimo successo che va dal 75 ai primi anni 80, ma in particolare la Spagna ha continuato anche negli anni 80 e negli anni 90. Ricordo che infatti nel libro lo abbiamo scritto che nel 99, per esempio, I Will Go With You, che è una cover del brano Con te partirò di Andrea Bocelli. Donna Summer ha fatto questa versione in chiave dance house con degli acuti strabilianti. Con questo brano e con l'album di appartenenza Live and More Encore, che è un album dal vivo, Donna Summer in Spagna appunto ha preso il disco d'oro. Quindi voglio dire, non è un personaggio ovviamente relegato solo alla disco music, ma è un personaggio che veramente a 360 gradi ha preso tutto il pop, fino poi purtroppo alla prematura scomparsa nel 2012, quindi 11 anni fa. E a questo proposito anche un'altra cosa interessante: voi nel libro dedicate molte pagine che sono davvero interessanti su, diciamo, Donna Summer, gli anni, lo ricordavate anche voi poc'anzi, insomma, gli anni d'oro sono la fine dei 70, i primissimi anni 80, ecco, ma poi c'è anche una Donna Summer dopo quell'epoca dorata, no? Voi titolate insomma questo capitolo corposo del libro Last Dance, no? Che succede a Donna Summer quando finiscono un po' questi successoni che insomma la convertono appunto in una disco queen nel 77, 78, 79, e che ne è della sua carriera, che ne è anche di come lei si interpreta come un'icona pop, visto insomma, utilizzando anche l'espressione che voi mantenete nel sottotitolo del libro. Succede che diventa una persona finalmente appagata, perché a lei il ruolo, come accennava prima Giovanni, di disco queen piaceva senz'altro, però le stava un po' stretto, e finalmente da metà anni 80, dall'inizio degli anni 80, riesce a così a elargire anche tutti i suoi colori della sua voce, invece, quindi questo arcobaleno vocale come da titolo del nostro libro, e quindi tutta una policromia di suoni e di vocalità completamente nuove. Quindi, non so, album come quello con Quincy Jones, che si chiama Donna Summer, appunto, dell'82, in cui ci sono grandissime collaborazioni, tra cui una con Bruce Springsteen, che scrive apposta un brano per lei, Protection, tra l'altro uscito solo per il mercato spagnolo, come 45 giri, quindi questa è una chicca, per il mercato spagnolo e belga, se non sbaglio. In Italia non uscì il singolo, purtroppo. E poi il brano State of Independence con un coro fantastico dove c'erano Dionne Warwick, Michael Jackson, Stevie Wonder e tantissimi altri artisti. Poi fece She Works Hard for the Money, un altro hit pop dance assolutamente incredibile, in cui veste i panni di una cameriera addirittura nella copertina del disco. Poi nel fine anni 80 con This Time and It's For Real, insomma la carriera di Donna Summer non finisce con gli anni 70 e con i primi anni 80, continua, e veramente lei può dimostrare di essere una cantante a tutto tondo, e soprattutto diventa una persona nella vita privata e nella vita artistica, quindi di tutti i giorni, appagata con se stessa, una persona serena, felice proprio di vivere. Io l'ho intervistata varie volte, ovviamente negli anni 90, per ragioni anagrafiche non ho potuto intervistarla purtroppo negli anni 70, e appunto abbiamo incontrato una persona solare, molto simpatica, molto alla mano, per niente diva, quindi completamente diversa da quello che uno si poteva aspettare da una grande artista superstar come lei. Quindi confermo, no, volevo aggiungere a quello che ha detto Andrea, che nella seconda parte della sua carriera, diciamo, lei, oltre a tutte queste collaborazioni che citava Andrea, tra l'altro bisogna ricordare il famoso duetto a fine anni 70 con Barbara Streisand, insomma veramente ne ha collezionato una serie di perle, e anche la collaborazione con John Barry per il film The Deep Abyssi. Ma comunque non bisogna dimenticare che Donna Summer era anche una cantautrice, perché è vero che Giorgio Moroder e P. Bellot producevano e scrivevano i brani, ma lei collaborava sempre alla scrittura, sia per quanto riguarda la parte delle parole che della musica. E quindi nella seconda parte della sua carriera, quando poi non collaborerà più con Moroder, lei con il marito Bruce Sudano, che tra l'altro a proposito di rapporti con l'Italia è di origine italiana, musicista anche lui, si trasferiscono a Nashville, e lì lei si dedica tantissimo alla scrittura di brani. Molti sono usciti fuori come demo così su internet, qualcuno ogni tanto su qualche album, ma lei scriveva tantissimo, sia poesie che canzoni, e poi si dedica anche alla carriera di pittrice, perché diventa anche una quotatissima pittrice in ambito americano. Quindi ecco, il suo arcobaleno è un po' questo, cioè era una donna veramente dai tanti talenti. Sì, assolutamente sì. E siamo in chiusura di questa chiacchierata con voi, prima di andare ad ascoltarci il terzo ed ultimo brano che proponiamo di Donna Summer, che è Hot Stuff. Insomma, abbiamo scelto tre brani, Andrea e Giovanni, che sono insomma tra i più famosi, insomma ci fanno venire una voglia di andare a ballare questa sera, vabbè. Però vi volevo domandare così, botta e risposta, e togliendo appunto questi tre classiconi, queste tre hit, se doveste scegliere uno a testa, un altro brano che più amate, che più vi interessa, anche per essere magari particolare, meno conosciuto, di Donna Summer, quale direste? Andrea, cominciamo da te. Allora, guarda, raddoppio, brevemente sceglierei due brani. Uno degli anni 70, che è MacArthur Park, è proprio la summa della disco music d'eccellenza, cioè un arrangiamento fantastico, un ritmo incalzante e la voce che vola in verticale in maniera incredibile. E un altro invece potrebbe essere Looking Up, che è un brano che non è mai uscito come singolo, se non in Giappone, se non ricordo male, ed è tratto dall'album The Wanderer, pure questo bestseller in Italia e in Spagna, ed è un brano da scoprire, perché è un gioiellino della produzione Moroder, Summer e Bellotti. Fantastico. Giovanni? Oh, oh. Allora, per par condicio anch'io ne dico due, di uno è State of Independence, che è la sua versione di questo brano di Vangelis e John Anderson, nell'album prodotto da Quincy Jones, è veramente un una versione da riscoprire per chi non la, o da scoprire per chi non la conoscesse, tant'è che quando Donna Summer scompare nel 2012 intervistano tra gli altri Bono degli U2, che dice non dimenticatevi di Donna Summer e ascoltate State of Independence per capire che grande artista lei fosse. E poi uno dei miei brani preferiti è uno scritto da lei, musica e parole, si chiama My Baby Understands e sta nel suo album Bad Girls. Invito tutti ad ascoltarlo perché non c'entra niente con la disco music e tutte le voci che si ascoltano su quel pezzo sono sue, e veramente là lei dà il meglio di se stessa sia dal punto di vista della scrittura che dell'interpretazione vocale. Vabbè, fantastico, insomma ci avete dato un sacco di consigli e un sacco di voglia di andare ad ascoltare ancora più brani di Donna Summer e soprattutto di leggerci questo libro Donna Summer, la voce arcobaleno, da Disco Queen a Icona Pop. Giovanni Savastano, Andrea Angeli Bufalini che ci hanno accompagnato questo pomeriggio a Zibaldone. Il libro uscito da Coniglio Editore lo trovate su tutte le piattaforme digitali, magari prossimamente anche qui alla Libreria Italiana Le Nuvole di Barcellona, e ovviamente so che il libro lo state promuovendo in giro per l'Italia anche in queste settimane e nei prossimi mesi. Sì, esattamente, stiamo promuovendo un po' in lungo e in largo in tutta Italia, e perché no, magari un giorno verremo anche in terra spagnola, se dovesse uscire una versione appunto in spagnolo del libro saremmo molto contenti di partecipare, vedremo. Anche noi, attendiamo fiduciosi. Andrea, Giovanni, grazie davvero di essere stati con noi. Grazie a te Steven. E un saluto a tutta la Spagna. Buon pomeriggio e godiamoci questa Hot Stuff Donna Summer qui su Zibaldone Radio Contrabanda. Zibaldone. Radio Contrabanda. Caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Contrabbanda, lo Zibaldone Barcellona, ciao ciao da Ricky Russo in collegamento da New York, grazie di cuore fratello per lo spazio che mi concedi prima della pausa estiva, è sempre un piacere essere dalle tue parti. Quest'oggi però devo fare un annuncio che un po' mi spezza il cuore. Infatti una delle mie più grandi ispirazioni, uno dei miei grandi eroi newyorkesi, Jesse Malin, purtroppo è stato colpito quasi un mese fa da un ictus spinale che lo ha in parte paralizzato. Una vera disgrazia, una sfiga che proprio Jesse non meritava, un rocker di altissimo livello, Malin è un trascinatore, un punto di riferimento della scena musicale newyorkese e anche una persona, devo dire, generosa, disponibile, sempre gentile con tutti. Ho avuto modo di conoscerlo, di incontrarlo più volte in questi anni, abbiamo fatto anche una collaborazione su alcuni progetti. Jessi sta portando avanti una riabilitazione e mi auguro di cuore che possa riprendersi presto. Le spese mediche sono giganti, la sua assicurazione copre solo una parte e quindi quest'oggi approfitto del tuo spazio per fare un annuncio. Vi chiedo gentilmente, vi chiedo di cuore di fare una donazione anche piccola per supportare e aiutare questo grande rocker newyorkese. Sweetrelief.org, Jessi Malin Fund. Trovate tutte le coordinate per dare il vostro contributo. Grazie, vi auguro una stupenda estate. Un abbraccio grandissimo a te, Steven, a tutta la radio e a tutti i tuoi ascoltatori. Ci salutiamo con un pezzo di Jessi assieme a Springsteen. Broken Radio. Ciao da Ricky Russo, da New York. I was thinking about another time, still in my mind. Well, I used to know a little girl high on this world. Your baby loves you more than you know. Raised on revelry and rock and roll. Let's go on the radio. Well, we never had a lot of cash, but we love those kids. Some say that she missed the boat, but she just burned the bridge. The angels love you more. Talk about astrology. She was born in June. She danced with strangers and celebrities, empty stars in the full moon. I was thinking about the universe for what it's worth. Or the one about the phoenix bird that died and returned. The angels love you more than you know. Raised on robbery and rock and roll. Moving to the motor city soul. Moving to the motor city soul. To go on the radio, on the radio, on the radio. The angels love you more on the radio, broken radio. A Castelluccio di Norcia, in Umbria, è iniziato lo spettacolo del generale Figliuolo nominato commissario alla contrattazione collettiva sotto la superficie del mare. Toccherà 5 continenti con 6 milioni di animali selvatici attirati dagli avanzi. Condividiamo una strada, dice, la percorriamo insieme. Un altro sfregio ai nostri monumenti con tagli inaspettati. Incide sulle mura del Colosseo il suo nome e quello di Lukashenko e quello della Sant'Anché, ma dopo 4 ore si fa vivo con un audio di 11 minuti in cui afferma di non aver mai avuto intenzione di fermarsi nei boschi tra Slovenia e Croazia. PD e 5 Stelle tentano una battaglia unitaria sul ritorno dei costumi interi con tessuti inaspettati, sia per la maggioranza che per l'opposizione. Meloni replica con i dati Istat. Cassonetti stracolmi e dati alle fiamme, da Roma a Palermo, notizie incoraggianti che ci spronano a fare sempre meglio. Il ministro San Giuliano ricollega il pene al cervello, trasformando l'intenzione in movimento. Non si fermano gli sbarchi sulle coste italiane. Lo sfogo del generale Figliuolo sembrano provenire da altri pianeti. Salvini, ho convinto al telefono il capo della brigata Wagner a fermarsi nel Crotonese in cambio di nomine, appalti e favori, ma discuterne ora non è nell'interesse dell'Italia. Viaggia a 124 km orari sugli alberi. È la Ferrari più estrema di sempre, una vera macchina, ma parla solo di Kevin Costner. Si chiama SF88XX Giustizia Stradale, una supercar ibrida che può essere guidata anche da un agente di polizia o di Nanterre. E sono tornate anche in chiusura ormai del nostro programma le ultimissime banzo, insomma ci sono delle notizie davvero che secondo me vale la pena commentare. Non so se vuoi cominciare da Salvini e la Wagner o piuttosto magari da questa grande decisione del ministro della cultura San Giuliano. No, io invece comincerei dalla fine perché sono veramente stupefatto da questa Ferrari, la più estrema di sempre, viene presentata d'altronde. Questo modello che si chiama SF88XX Giustizia Sociale, un nome che è tutto un programma, che viaggia a 124 km sugli alberi, perché 124 km in strada non è nulla, ma tu hai mai provato a guidare sugli alberi? No, sì. Mai, devo dirti la verità. Neanche io, perché non ho la patente, però facciamo finta che, insomma, non credo che sia la cosa più facile del mondo. Pensa al barone rampante, ecco, se avesse avuto una macchina, forse una cosa di questo tipo. Magari, ecco, adesso si scrive un sequel del barone rampante. Sì, nel quale parteciperà anche Kevin Costner, perché questa macchina parla solo ovviamente di Kevin Costner, un altro ovviamente dettaglio misterioso. Comunque, tu mi avevi lanciato delle dritte, boh, il ministro San Giuliano... ma almeno da quello che abbiamo sentito si può dire che non ragiona più solo col cervello. Di solito si dice il contrario, che uno ragiona col pene, si usa un'altra parola, ma in questo caso c'è una sinergia perché le due cose sono state ricollegate. Quindi, boh, non lo so, forse ci sono gli estremi per delle vere decisioni da testa di cazzo, ecco. Sì. Lukashenko e la Sant'Anché invece? Guarda, è coppia di fatto? Perché no, semplicemente si tratta di un personaggio misterioso perché non viene annunciato nel titolo. Questo soggetto, colui che incide, non è specificato chi è, ma possiamo immaginare le sue simpatie politiche, perché per incidere Sant'Anché e la Sant'Anché e Lukashenko sul Colosseo, insomma, diciamo che bisognerebbe non deve essere un ex militante di lotta continua, no. O sì, potrebbe esserlo, chi lo sa, metamorfosi clamorosa. Chi lo sa, bisognerebbe capire anche se ha scritto Lukashenko e Sant'Anché entrambi con la K, magari allora sì, che potrebbe essere un po' come America con la K, sai, quelle cose un po' d'antan. Sì, Cossiga con la K. Appunto. E a proposito di lettere poco comuni in italiano abbiamo la W di Wagner, ecco, che mi avevi menzionato all'inizio. A me risulta curiosa questa cosa che il Prigozhin si sia fermato a Crotone, perché non ho capito che strada abbia fatto. Vabbè, ringraziamo Fausto De Salvia, le ultimissime della stagione ritorneranno a settembre, come anche Zibaldone, ma però voi non perdetevi la prossima settimana, l'ultima puntata di questa stagione che come tradizione è le canzoni dell'estate, come sempre molto peculiare come scelta dei ritmi da ballare in quest'estate 2023. Comunque, insomma, venerdì prossimo ne parleremo e ascolterete dei brani a riguardo. Banzo, oggi ci salutiamo con De Italia Otra Parte, ossia una canzone italiana in una versione molto particolare in spagnolo, cantata da un artista di qui. Sì, oggi De Italia Otra Parte funge anche da ultimo trago, quindi una rubrica polivalente, perché appunto sarà l'ultimo brano di oggi, come giustamente sottolineavi. e abbiamo una trasfigurazione vera e propria, quindi non c'è neanche bisogno di stare a raffrontare le differenze di testo, perché di testo ce n'è poco alla fine. Allora, abbiamo un brano di Toto Cutugno, perché? Perché l'8 luglio compie gli anni, 80 anni di Toto Cutugno. Auguri! Pensa. Augurissimi! E vi proponiamo la cover di Toto Cutugno che non potevate sapere di desiderare, a meno che non la conoscesse prima, ma ne dubito. Allora, abbiamo il brano Donna, Donna Mia del 78, con quel tipico arrangiamento, per chi lo ricorda, del Cutugno a cavallo fra la fine dei 70 e l'inizio degli anni 80, uno stile molto distintivo. E però lo troviamo in una versione dal titolo abbastanza ineffabile, Cosa Nostra, del Manzanita. La grande Manzanita. Nome artistico di José Manuel Ortega Heredia, che era sostanzialmente un artista a cavallo fra rumba, flamenco, rock, e prende la canzone di Toto Cutugno e la trasforma completamente in un'altra cosa. Ne rimane solo la linea melodica praticamente, però l'arrangiamento ovviamente è diversissimo e devo dire che il risultato è pregevole. E allora ce la andiamo a ascoltare, con questa canzone anche ci salutiamo. Banzo, grazie di essere stato con noi, ci troviamo venerdì prossimo. Certo, Steven, perché le canzoni dell'estate chiamano. Eh sì, chiama anche l'estate, prima che finisca godiamocela un po'. E buon venerdì sera a tutti, andate a ballare dopo aver ascoltato Donna Summer, che ci ha caricato un po' le pile e ci ha aiutato a muovere un po' lo scheletro, come si suol dire. Noi ci troviamo venerdì prossimo dalle 18 alle 20 qui su Zibaldone, come era solito dire il primo sindaco socialista di Madrid. Dopo il franchismo, Enrique Tierno Galvana alle 19.57. Venerdì scorso è venuto a prenderci la betoniera, oggi ovviamente è venuto a prenderci la Ferrari Giustizia Sociale. Eh sì. Quindi ci aspetta una bella passeggiata fra gli alberi. Vabbè, godiamoci sta passeggiata e godiamoci anche il Manzanita, che versione a Toto Cutugno. Ciao Banzo, ciao a tutti, buon venerdì sera.